Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'approvvigionamento di acqua potabile è un problema serio e tuttora irrisolto in molte aree del mondo, nelle quali non solo l'acqua è un bene scarso, ma spesso mancano anche quelle facilities, prima fra tutte l'energia elettrica, che permettono di ricavare acqua potabile dall'acqua di mare o da altre fonti idriche in una qualche misura, diciamo così, inquinate, artificialmente o naturalmente. Ebbene, Solwa è una startup innovativa nata nel 2012 come spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, proprio per fornire una risposta in situazioni come queste. Ne parliamo con Paolo Franceschetti, fondatore e attualmente amministratore delegato di Solwa. Buonasera Franceschetti. Buonasera a tutti. Allora, intanto ci descriva subito questo oggetto, perché Solwa è anche il nome, diciamo così, del vostro prodotto di punta. Sì, Solwa è un depuratore, o meglio un desalinizzatore di acqua inquinata o acqua salata attraverso l'esclusiva ed esclusivamente e energia solare. In particolar modo è una serra solare dove noi introduciamo l'acqua da trattare attraverso il surriscaldamento dato dalla radiazione solare. Otteniamo un vapore attraverso delle ventole e uno scambiatore di calore, riusciamo a condensare questo vapore e ottenere acqua depurata. Ecco, detta così sembra però una cosa anche un po' banale, che potrei farmi a casa io con un po' di celofane e un ventilatore, no? In realtà c'è dentro uno studio abbastanza sofisticato. Sì, all'apparenza sembra un sistema molto semplice e banale, però allo stesso tempo, per permetterne una buona produzione di acqua e allo stesso tempo ridurre quanto più possibile la manutenzione, ci sono profondi studi di fluidodinamica, termodinamica, gestione dei bilanci di massa e allo stesso tempo accortezze tecniche per permettere l'autopulizia del sistema stesso. Quanto siete più efficienti di un sistema tradizionale basato sullo stesso principio evaporativo? Grazie alle innovazioni che abbiamo introdotto riusciamo a produrre con un'efficienza superiore al 30% rispetto a ciò che attualmente esiste sul mercato. Oltre alla distillazione di acqua di mare e quindi la produzione, insomma, di acqua potabile, ci sono altre applicazioni? Sì, abbiamo capito che siamo particolarmente bravi a togliere il vapore o l'acqua da ciò che mettiamo all'interno dei nostri sistemi, quindi abbiamo applicato questa stessa tecnologia o questo stesso principio su altre matrici, quali fanghi. Per esempio, che sono un problema, cioè quello che viene fuori dai depuratori dell'acqua che va in qualche modo smaltito. Esattamente. Come il digestato e gli impianti di biogas che stanno diventando sempre più di moda, e allo stesso tempo siamo in grado di disidratare frutta e verdura o pesce e carni. D'accordo. Altre applicazioni sono nel campo invece dell'essiccazione delle biomasse al fine di avere legno secco per la combustione, per il riscaldamento delle nostre case. Per esempio, per fare i pellet è necessario essiccare la legna, sì? Esattamente. E infine abbiamo creato un sistema che produce acqua pura e idonea per l'agricoltura in ambienti desertici, e riusciamo a coltivare direttamente sulla sabbia con una serie delle nostre tecnologie e innovazioni. Ecco, se ho capito bene, lì ci deve essere una specie di circuito chiuso, no? Per risparmiare il più possibile di acqua. Esattamente, l'aria all'interno del nostro sistema è un circuito chiuso dove viene a una fase di umidificazione e una fase di deumidificazione. Quindi l'acqua che le piante naturalmente perdono per evotraspirazione, si chiama così, e voi riuscite a recuperarla sostanzialmente, mi sembra di capire. Dai nostri studi siamo riusciti a dimostrare con i nostri prototipi, le nostre sperimentazioni, che siamo in grado di coltivare frutta e verdura con solo il 10% dell'acqua che normalmente viene utilizzata in campo aperto. Con chi state lavorando in questo momento? In quali paesi? All'inizio, con la depurazione dell'acqua, eravamo soprattutto orientati verso paesi in via di sviluppo, quindi possiamo pensare al Centro America piuttosto che l'Africa o l'Asia. Allo stesso tempo, con i nuovi prodotti, ci stiamo orientando soprattutto per la frutta e la verdura verso mercati più occidentali, se pensate che le maggiori richieste arrivano proprio dall'Italia per l'essiccazione della frutta e verdura. In particolar modo, mi viene un esempio, i pomodori secchi della Puglia, piuttosto che i peperoni della Calabria o altre tipologie, quali le piante officinali, in quanto l'Italia è il maggior produttore al mondo. Addirittura il maggiore, ecco, abbiamo imparato anche questa cosa. Va bene, allora grazie Franceschetti, in bocca al lupo. Vi ringrazio a voi e buona serata a tutti ancora. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. A Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.